Che poi è il segreto di Pulcinella, vabbè, sì, lo sanno tutti. Però se qua, tutti qui. Questo va. Sono però io direi, la prima domanda gliela fa Alberto. No, te però fai l'intro. Sì, sì, ma rimbalzo a me o rimbalzo? Sì, sì, sì. Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con la serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, trasmettendo dalla Galleria San Lorenzo in pieno centro storico di Montevarchi. Siamo arrivati alla conclusione di questa nostra prima stagione insieme, quindi quella di stasera è un'ultima puntata. E Fumino, è un'ultima puntata speciale perché abbiamo un ospite non montevarchino, quindi torniamo ad indagare la montevarchinità pur guardando anche fuori dai confini cittadini. E poi, oltre a noi due, a condurre abbiamo anche un terzo conduttore, sempre proveniente da Radio Big World. Buonasera a tutti e benvenuti anche da parte mia agli ascoltatori di Radio Big World, Fumino. Intanto partiamo a dire chi è il conduttore terzo con noi stasera, è una voce di Radio Big World ed è Alberto Fratini. Buonasera a tutti amici radioascoltatori, buonasera Fumino, buonasera Julian, per me è un grosso piacere essere qui. È un piacere anche per noi ospitarti ai nostri microfoni. Intanto presentiamo il regista di stasera, che in onore a una persona, un grande regista recentemente scomparso, è Carlo Vanzina, ma poi insomma è l'ultima puntata di questa stagione e sveleremo anche qualche piccolo mistero del volo dell'Aquila. E stasera non siamo solo con un conduttore in più ed un ospite illustre che ci è venuto a trovare, ma siamo anche con il santo subito Stefano Neri, che però ha deciso di non parlare. Bene, bando alle ciance, è arrivato il momento di entrare nel vivo della puntata. Benvenuto a Tommaso Maschio. Buonasera a tutti i radioascoltatori. Sono contento di essere qui, anche se ammetto che solo un anno fa non mi sarei mai aspettato di trovarmi a parlare di Montevarchi e montevarchinità, non essendo di qua, ma avendo fatto altri percorsi, avendo vissuto in altre città. Però è un onore essere stato chiamato qui a parlare a questa radio. Bene Tommaso, d'altra parte per noi è interessante e sarà interessante anche sapere il punto di vista, come ho detto prima in fase di presentazione, di un non montevarchino rispetto alla montevarchinità. Però la prima domanda che solitamente spetta a me, darei l'onore di farla ad Alberto in quanto nuovo arrivo nella famiglia del volo dell'Aquila, quindi Alberto prego. Preghi. La prima domanda che volevo fare a Tommaso a proposito di percorsi è: quando è stato quel momento in cui ti sei trovato davanti al bivio Montevarchi e altro e tu hai girato a destra, a sinistra, insomma? Allora, è stato abbastanza casualmente, tramite il lavoro ho conosciuto appunto una ragazza, la Giulia, di Montevarchi, con cui abbiamo parlato di ultras e altre questioni relative al calcio, trovandoci d'accordo su molti punti di vista, avendo conoscenze e percorsi abbastanza comuni. Mi sono trovato il giorno dell'inaugurazione del murales dietro la curva sud di Montevarchi a essere invitato tramite Facebook, così, e accettai l'invito scrivendo, poi sentendomi poi con la Giulia per organizzarmi e venire, e lì fu la prima volta che ebbi un vero contatto con la realtà montevarchina, che conoscevo perché comunque la tifoseria frequentava mondiali antirazzisti, progetto ultra e altri percorsi similari a livello ultras, però non l'avevo mai visto dal vivo perché col Bologna non si è mai avuto l'occasione di incontrarsi. Abbiamo parlato di lavoro e in effetti Giulia, che comunque è stata una nostra ospite anche lei all'interno del volo dell'Aquila, il vostro lavoro è il giornalismo sportivo sostanzialmente, tu giri anche tante parti d'Italia appunto per lavoro, seguendo le varie cose che accadono a livello magari di tifoserie durante una partita, magari facendo degli articoli su quello che hai visto. E questo vostro lavoro vi ha permesso di incontrarvi, però come hai appena detto conoscevi in qualche modo l'ambiente montevarchino perché Montevarchi, la curva sud di Montevarchi, ha partecipato ai mondiali antirazzisti nel tempo e qui è nato diciamo un po' la conoscenza a grandi linee della nostra città e della nostra tifoseria. Questo è stato un motivo in più quindi avere già una piccola conoscenza di questo mondo per accettare l'invito, o magari è stata una cosa più estemporanea? Conoscere la realtà, in parte la realtà di Montevarchi, avere molti punti in comune, soprattutto per i percorsi fatti in passato, ovviamente è stato un motivo in più per avvicinarmi a questa realtà. Poi è stato, ammetto, è stato molto casuale come incontro, però subito dal primo momento in cui sono stato in curva mi sono sentito molto a mio agio, e questo mi ha poi portato a venire altre volte e conoscere sempre meglio sia la realtà della curva e instaurare rapporti di amicizia anche con altri ragazzi che la frequentano, con cui comunque ci si vede, ci si sente abbastanza spesso. Ma in maniera molto onesta, se ti ricordi, perché poi tra l'altro, come dicevi, sei venuto qua per la prima volta quando è stato inaugurato il murales, quindi comunque era una giornata particolare, c'era molta montevarchinità nell'aria. Qual è stata la prima impressione in seguito a quella partita? Cioè, hai dei ricordi, dei primi approcci con i montevarchini, con il tifo montevarchino e soprattutto anche con la squadra? Perché magari, visto che hai frequentato anche differenti stadi e sicuramente categorie superiori, ti sei comunque trovato a vedere una partita di un livello sicuramente più basso rispetto alla tua media. La prima impressione è stata positiva ed è stata soprattutto l'accoglienza, la capacità di accogliere comunque una persona che viene da fuori, che conosce nessuno, perché conoscevo solo la Giulia, e comunque sono stato subito ben accolto, a parte i primi momenti in cui mi guardavano probabilmente chiedendo ma chi è questo qua che arriva con la Giulia, che parla un accento strano, non di qua. Però a parte i primi momenti, una volta conosciuto, spiegato perché ero lì, da dove venivo, tutta la mia storia, diciamo, è stata una grande accoglienza. L'impatto col tifo è stato molto positivo, perché comunque vedere in eccellenza una tifoseria comunque numerosa, calda, non è una cosa da tutti i giorni. In molti stadi, soprattutto al nord più che al sud, diciamo, in eccellenza praticamente non c'è una realtà ultras, o se c'è è formata da pochi elementi, mentre qui ho visto che c'è un movimento che già conoscevo anche per i trascorsi in Serie C degli anni d'oro del Montevarchi, e ho visto comunque portare avanti una tradizione che conoscevo per sentito dire o per averci parlato, scambiato qualche parola appunto ai mondiali antirazzisti, ed è stata una bella sorpresa. Sono ancora tornati fuori dalle tue parole questi mondiali antirazzisti. Tu ci hai appena detto, prima in fase di preparazione della puntata, che hai finito la tua settimana di ferie appunto spesa ai mondiali antirazzisti. Per i nostri ascoltatori che non sanno bene cosa sono i mondiali antirazzisti, o per tutti quelli che magari vogliono saperne un po' di più perché magari li conoscono ma non conoscono un po' l'interno, tu fai parte dell'organizzazione di questa manifestazione. Intanto diciamo che è una manifestazione organizzata dalla WISP insieme a tante altre varie associazioni, che comprende una parte sportiva e una parte culturale, fatta di dibattiti, fatta di conferenze, fatta di letture, di presentazioni. Quindi non è una cosa strettamente legata al mondo ultras o al mondo del calcio in particolare. Poi che all'interno ci siano state anche realtà ultras ad appoggiare e a partecipare, questo sì, ma è un altro discorso. E spiegaci meglio allora cosa sono questi mondiali antirazzisti, come sono nati e chi li porta avanti. Allora, sono un evento che si tiene di solito la prima settimana di luglio, il primo weekend di luglio per meglio dire. Inizialmente avevano una forte matrice componente ultras, perché comunque erano partiti dal nucleo di progetto ultra e allargato poi a tutte le tifoserie di sinistra, questo si parla di una ventina d'anni fa circa. Piano piano sono cresciuti, si sono spostati, perché originariamente erano a Montecchio in provincia di Reggio Emilia, poi si sono trasferiti a Casalecchio di Reno in provincia di Bologna, e ora si fanno a Bosca Albergati, che è provincia di Modena, sempre in Emilia Romagna. Comunque si resta, è a distanza di pochi chilometri, e sono cresciuti. In un primo momento c'erano solo tornei di calcio a 7, non competitivo, minimamente autoregolamentato, nel senso che l'arbitro segna solo il risultato e non interviene per falli, quello ci si autoregolamenta all'interno della partita. Negli ultimi anni sono cresciuti, c'è il torneo di pallavolo, c'è il torneo di basket, ci sono dimostrazioni di altri sport come il rugby a 7 o il cricket o altri ancora meno conosciuti, ma che hanno piano piano stanno prendendo spazio. In più ci sono, come dicevi appunto tu, conferenze, dibattiti, presentazioni di progetti, tutti basati ovviamente sull'antirazzismo e l'antisessismo, che sono battaglie che in questo momento storico vanno ancora più portate avanti. Negli ultimi anni purtroppo la componente ultra si è venuta sempre un po' meno per problemi organizzativi, logistici, questioni delle varie curve in cui non posso addentrarmi perché non è mio compito, però è sempre un buon punto di ritrovo, soprattutto per confrontarsi con realtà estere che vengono dalla Francia, dalla Germania, dalla Spagna, una volta dalla Grecia, adesso meno, anche perché la crisi greca si è fatta molto sentire, e fare i punti delle varie situazioni, soprattutto a livello di repressione, controlli degli stadi, a livello diciamo più globale e fuori dal nostro solito giardino interno italiano. A sentirti parlare mi è venuto subito una grande curiosità di scoprire meglio questa realtà, e mi è venuto in mente, ma se uno dall'altra parte del computer o di una radio ci ascoltasse in questo momento e volesse partecipare ormai il prossimo anno, come dovrebbe fare? Se vuole venire solo come ospite, solo per frequentare la manifestazione, è molto semplice: si arma di tenda, viene a Bosco Albergati, è abbastanza facile, basta arrivare a Castelfranco Emilia, poi da lì è poco il trasbordo e si fa o con l'autobus o appoggiandosi magari all'organizzazione che propone delle navette per arrivare in questo posto che è un po' isolato in realtà nella Bassa Padana, ma molto bello, molto verde, c'è parecchia ombra anche, che quello non fa mai male. Il campeggio è gratuito, quindi basta arrivare lì, piantare la propria tenda, o se uno c'ha il camper, venire col camper, che è anche più comodo, e poi vivere questi mondiali nei bar, nella piazza antirazzista dove ci sono i dibattiti, conoscere, sedersi al tavolo semplicemente e parlare con chi si ha a fianco per conoscere meglio le altre realtà. E se eventualmente volesse partecipare all'organizzazione, è possibile? C'è da iscriversi ad un'associazione? Basta sentire qualcuno e iniziare a frequentare riunioni? Sì, c'è un'organizzazione dei mondiali antirazzisti e bisogna scrivere semplicemente tramite il loro sito ufficiale, che si trova semplicemente, scrivere e chiedere come fare a partecipare, perché noi ci abbiamo sempre partecipato essendo nati i mondiali con noi. Abbiamo sempre partecipato fino a 2 anni fa nell'organizzazione, quindi non ti so dire uno nuovo esattamente come fa a entrare. L'unica cosa è scrivere alla mail e poi ti metti in contatto con loro, con la WISP stessa del posto anche. Quindi tecnicamente è un mondiale senza confini, cioè uno entra gratis, conosce chi conosce e partecipa? Sì, esattamente così. Lo spirito è quello, ovviamente devi condividere certe parole d'ordine, diciamo, che sono l'antirazzismo, l'antisessismo. Se ti presenti con altre idee non sei il ben accetto, ed è successo più di una volta, qualcuno dovesse scappare voi a gambe levate, essenzialmente, perché poi siamo tutti buoni e cari, ma quando ti vengono a stuzzicare a casa propria sappiamo come reagire, ecco. Oltre a questo, visto che molto spesso noi abbiamo parlato di mondo ultras e molto spesso abbiamo cercato di superare questo limite immaginario per le persone che non conoscono l'universo ultras, per il quale appunto gli ultras sono debosciati, casinari, gente che si picchia e che si ubriaca, in realtà Progetto Ultra, i mondiali antirazzisti, noi abbiamo partecipato, almeno io personalmente, anche a un altro torneo anni fa che era l'Estadio del Bae, che era comunque in solidarietà con le comunità zapatiste. Insomma, si parla di solidarietà, un qualcosa che va anche oltre il tifo e oltre e anzi parte degli ideali ultras, che è sempre importante da sottolineare. Ulteriormente ti volevo domandare, sapevo e mi ricordo, non so se ancora, che spesso ci sono anche squadre formate da comunità straniere che vivono in Italia, e che sono presenti e che giocano comunque chiaramente insieme anche ai vari squadre dei vari gruppi ultras. Cioè, come funziona anche la convivenza? È chiaro, è scontato che nei mondiali antirazzisti non ci possa essere dei contrasti di provenienza, però quanto è difficile fare in modo che questo funzioni? Sì, sì, assolutamente, ci sono realtà di squadre di cittadini stranieri che vivono in Italia. Negli ultimi anni sono aumentate molto le squadre di rifugiati, ad esempio, anche se quest'anno c'è stato un calo e non so bene se sia per le politiche di questo governo o meno, comunque c'è stato un calo di alcune squadre di rifugiati che non si sono presentate, però ce n'erano parecchie. Vivere si vive semplicemente, alla fine la solidarietà, come dicevi, è un collante fondamentale, quindi queste realtà si trovano a loro agio, si trovano assolutamente integrate perfettamente in quel microcosmo che sono i mondiali antirazzisti. Poi viene naturale, direi naturale, la convivenza sia sul campo da calcio che poi durante le serate si sta tutti assieme, si balla, si fanno i cori assieme. Però scusa Fumino, prima di lasciarti il microfono, una considerazione che volevo fare è che comunque molto spesso ci si incontra tra tifoserie e anche rivali, però in una situazione del genere, quando l'idea di comunità, l'idea comune anzi, è superiore anche alle rivalità, le rivalità che normalmente ci sarebbero incontrandosi durante un campionato vengono assolutamente superate in nome di un bene comune o di un ideale comune, in questo caso grandissimo, che secondo me è tutto da applaudire, insomma. Sì, sì, quello verissimo. Ti posso fare l'esempio che noi per molti anni abbiamo lavorato al bar assieme alle tifoserie del Modena e del Parma, che sono storicamente nostri rivali, soprattutto più il Modena che il Parma, però anche col Parma non è che ci sono ottimi trascorsi, e è sempre andato bene perché comunque c'erano dei valori sia ultras che a livello di antifascismo e antirazzismo che ci univano e ci permettevano di fare un lavoro di comune accordo. Torniamo a parlare di Montevarchi e della tua sensazione rispetto a Montevarchi. Sei un giornalista sportivo, come abbiamo detto, scrivi articoli. E ti era mai capitato, prima di venire a Montevarchi, prima di conoscere i montevarchini, di scrivere un articolo sul Montevarchi perché magari avevi visto una sua partita? E se non ti era capitato prima, ti è venuto in mente di scriverlo dopo averli conosciuti i montevarchini? Prima no, non mi era mai capitato perché il Montevarchi, dopo il fallimento, è ripartito da serie inferiori che al lavoro non trattiamo. Trattiamo già poco la serie D, figuriamoci le altre. E quando ai tempi il Montevarchi era in C, io ancora non facevo questo lavoro. Muovevo i primi passi, però ancora non ero ufficialmente un giornalista. Quindi non ho mai avuto prima l'occasione, dopo l'ho avuta, sia per Sport People, con cui ho scritto diversi articoli, appunto il primo fu il giorno dell'inaugurazione del murales, poi ne scrissi altri quando sono capitato o per delle partite o per il ricordo di Rafa, Pispolo e Paolo negli anni passati, ormai questo è stato il mio terzo anno al Memorial. E poi mi è capitato di scrivere per lavoro, perché comunque dopo la promozione in Serie D ci sono stati alcuni acquisti o alcune voci di mercato che sono state riportate, le ho riportate con molto piacere, perché comunque è una realtà a cui tengo in parte, cui ho un occhio particolare di riguardo, ecco. E restando sempre in tema della Montevarchinità, perché io mi ricordo di aver condiviso almeno un pranzo con te da Luciano, e visto che siamo all'ultima puntata svegliamo i misteri e facciamo anche un po' di pubblicità, è uno dei luoghi di ritrovo e di pranzo prepartita preferiti da noi montevarchini. Possiamo dire che negli anni 70-80, come ci hanno detto alcuni ospiti, i calciatori e gli amici venivano ospitati nelle case. Oggi siamo in un mondo 2.0, nella Montevarchi 2.0, e gli ospiti si portano da Luciano. Perfetto. E tra l'altro, giusto per continuare a fare pubblicità a Luciano si trova esattamente in fondo alla strada in cui stiamo registrando, quindi se volete fare un tour di Montevarchi andate da Luciano, poi salite e trovate anche la Galleria San Lorenzo, magari è aperta, magari trovate noi, magari trovate Stefano Neri. Comunque, tornando a Luciano, uno come te che viene da fuori, passa un prepartita a pranzo da Luciano, dove c'è la Montevarchinità il suo meglio ora o me ora. Cosa pensa? Come se la vive? Cioè, che ricordi hai? Come descriveresti un prepartita da Luciano? Sicuramente interessante per conoscere la realtà della città, oltre che della tifoseria. Io mi sono sempre trovato bene, mi sono sempre trovato a mio agio fin dal primo momento. Ci tengo a sottolinearlo perché non è una cosa che capita tanto spesso. Si respira proprio il vostro animo, che è un animo accogliente, secondo me, più che in altre parti della Toscana. Io vivo a Firenze e oggettivamente non c'è questo stesso tipo di accoglienza. Sono molto più, almeno inizialmente, sono molto più sulle proprie. Mentre qui, invece, fin dal primo momento mi sono sentito quasi a casa. Ed è una sensazione strana, perché non la si prova tanto spesso, diciamo che da quel punto di vista assomigliate più agli emiliani, devo ammettere, spero non sia per voi un, diciamo, qualcosa che vi manda di traverso il boccone. Assolutamente no. Se tu ci dicevi si assomiglia a Retini, sì, o a San Giovannesi, però vabbè, agli emiliani ci sta. Quindi sì, è stato molto positivo, mi è piaciuto anche calarmi, diciamo, proprio dentro la Montevarchinità di questi pranzi appunto da Luciano, in cui si conoscono, si scambiano opinioni, forse anche più che in curva, perché non c'è la distrazione della partita, non c'è da dover fare i cori, tenere il ritmo, eccetera, quindi si può parlare più liberamente ed è una sensazione veramente positiva, interessante. Abbiamo detto che per il lavoro che fai ti sposti molto, soprattutto fra varie tifoserie e varie realtà calcistiche, insomma, che incontri durante il tuo lavoro. Se un domani il Montevarchi arrivasse in Lega Pro, perché no? Quanto cambierebbe la vita di un tifoso montevarchino, ma anche dell'intera comunità? Sicuramente la vita del tifoso cambierebbe abbastanza, perché avrebbe a che fare con controlli più rigidi, con norme molto più severe, perché si entra nel professionismo e sappiamo negli ultimi anni ci sono state, dal decreto Amato, poi Maroni, ci sono stati molti cambiamenti anche nelle abitudini stesse dei tifosi, nel senso che c'è il tornello, c'è il perfiltraggio, ci sono i biglietti nominali, che sono tutte ostacoli nell'avvicinare magari allo stadio la gente, perché vuol dire comprare il biglietto prima, difficilmente al botteghino in casa sì, ma in trasferta non lo puoi più comprare al botteghino, devi già partire con i biglietti. Vuol dire dimostrare almeno una volta, se non due, il documento assieme al biglietto per entrare in una curva. Vuol dire sottostare a un regolamento dello stadio che è molto diverso rispetto a quello di una realtà di serie D o eccellenza, perché vuol dire, tra virgolette, anche stare al proprio posto, nel senso, tu hai quel posto segnato sul tuo biglietto e devi stare seduto lì, o preferibilmente seduto, magari in piedi ci puoi stare, si chiude un occhio, però volendo la Digos, la questura può farti storie se ti trova fuori dal tuo posto o in piedi sul tuo posto. Non lo fa quasi mai, però se vuole colpire una tifoseria trova anche questo modo, perché comunque tu firmi un regolamento dello stadio quando ti abboni, ma anche quando sottoscrivi un biglietto nominale, che ti impone determinati comportamenti, tra cui c'è anche ad esempio il non poter sostare nelle balaustre per lanciare i cori, che vieta l'uso di strumenti del tifo che per noi sono normali, come le bombe carta, o i bomboni, come li vogliamo chiamare, i fumogeni, i tamburi. Quindi è tutta un'altra realtà, poi non sempre viene rigidamente fatta rispettare, ovviamente, però su alcune cose è intransigente, i tornelli, il controllo dei biglietti, il biglietto nominale, su quello non si scampa. Ma da un punto di vista dello spirito, perché abbiamo parlato noi di tutte queste ostrizioni, ma mi domando, ci sarà anche qualcosa di positivo? Se no non merita nemmeno, uno dice rimango in Serie D, mi fa le mie trasferte, mi creo il mio ambiente e sto contento così. C'è qualcosa di positivo? Beh, sicuramente c'è il potersi confrontare con realtà sicuramente più importanti di quelle con cui ti scontri in Serie D. Si va in stadi più importanti. Molto spesso ti trovi di fronte tifoserie che sono veramente tifoserie importanti e che, con cui ti puoi confrontare a livello di cori per vedere chi è più bravo, chi riesce a fare il tifo migliore sia in casa che in trasferta. Si è visto qui qualche tifoseria importante è passata, anche quest'anno comunque c'è stato il Rimini, che è una tifoseria di un alto livello, cioè una tifoseria comunque da Serie C, ma anche in Serie B non ce ne sono di similari, e quindi il prossimo anno potrebbe esserci una fra Cesena, Modena, forse la Reggiana, che sono anche quelle tifoserie di altissimo livello, a mio parere. In Modena sono molto cariche, tra parentesi, per la ripartenza dopo che sono stati per 8 mesi senza una squadra a causa del fallimento, quindi sono molto carichi. C'è molta gente che si prepara a rientrare in curva dopo magari anni in cui non c'è stato, quindi in Serie C ne trovi percentualmente molte di più di queste realtà. Poi in Toscana c'è un girone di Serie C praticamente di squadre toscane, tra cui c'è anche l'Arezzo, con cui voi avete una certa rivalità, per cui c'è sicuramente il positivo, c'è questo, trovarsi comunque con realtà più importanti da vedere, comunque che ti stimolano anche a dare di più, a fare di meglio. Tutto sommato sarebbe preferibile, via, andare in Lega Pro anche un pochino, insomma, non dico mica per 1000 anni, ma un pochino, insomma, una capatina a vedere tifoserie blasonate e tifoserie effettivamente che sono tifoserie con la T maiuscola, sarebbe anche un buon piacere per noi che magari 20 anni fa l'abbiamo viste, ma anche per i ragazzi più giovani che ancora questo tipo di esperienza non l'hanno fatta. Però Tommaso, secondo la tua esperienza di giornalista sportivo e quindi comunque di persona che ne ha viste tante, partiamo dal presupposto ovviamente che Montevarchi è una città piccola, che il bacino d'utenza è limitato rispetto a grandi nomi come quelli che appunto si è citato, comunque di cui si parlava prima, e quindi probabilmente chiunque ci ascolta e non è di Montevarchi e non conosce esattamente il mondo ultras, la realtà del tifo montevarchino, può pensare anche che siamo qui a sparare cifre o comunque a darsi obiettivi irreali. Invece te, che comunque qualche volta in Curva Sud ci sei stato, come vedi e come potresti smentire queste persone descrivendo le potenzialità di questa piccola città col suo piccolo bacino d'utenza in relazione anche a grandi squadre toscane? Mi viene in mente, hai citato dell'Arezzo, mi viene in mente il Livorno, mi viene in mente Pisa, che si sono già incontrate, la Lucchese, eccetera. Cioè, come la descriveresti? Come potresti descrivere, anzi rialzare, l'orgoglio del Montevarchi se svalutato in quanto paesino? È vero, siete una piccola realtà, però ho visto in curva un bel movimento, nel senso, secondo me ci sono tifoserie in C che sono inferiori a quelle del Montevarchi, non faccio nomi per non scontentare nessuno, però ci sono realtà in C che hanno un seguito veramente risibile di tifosi, parlo di roba di una 50ina di persone quando va bene in curva, e rispetto a Montevarchi magari hanno bacini di utenza più importanti. Qui ho visto un bel movimento che, vabbè, conoscevo già e che ha una grande storia. Comunque il movimento ultras di Montevarchi ha una sua storia e una sua dignità importanti. Ultimamente vedo anche tanti giovani che si avvicinano alla squadra, e questo non è una cosa da passare in secondo piano, perché è difficile avvicinare i giovani a un mondo, a una squadra del proprio paese, quando questa naviga fra le eccellenze, i dilettanti, viene da fallimenti, e ovviamente il richiamo delle grandi squadre è sempre forte, c'è nelle piazze importanti, perché lo sappiamo benissimo, ci sono tifosi di Juve, Milan, Inter praticamente ovunque, in qualunque piazza. In una piazza così piccola riuscire a portare giovani a fare un determinato percorso, avvicinarsi non solo alla squadra della propria città, ma anche intraprendere per un percorso ultras, affiancato ovviamente da gente di maggiore esperienza che riesce a trasmettere valori e mentalità, è sicuramente una bella cosa, è qualcosa di interessante, che non scontato, ma che ti fa capire che in questa, che a Montevarchi c'è comunque un bel movimento e si può anche fare bene in caso di promozione. Io ve lo auguro. In Serie C credo che sicuramente la curva del Montevarchi non sfigurerebbe affatto, anzi forse avrebbe un'ulteriore spinta propulsiva per salire ancora di livello, perché le basi ci sono tutte per fare molto bene e quando sono venuto ho sempre visto un buono spettacolo. E io direi, Fumino, che comunque è un ottimo concetto da far passare in questa nostra puntata finale, questo fatto appunto che comunque il tifo a Montevarchi si rigenera, si è rigenerato, si ringiovanisce, c'è un'alchimia interna tra persone che comunque 20 anni fa frequentavano altri campi e ragazzi giovani che oggi si avvicinano a questo mondo, in un mondo odierno dove è tutto complesso, come si diceva prima, sia da un punto di vista proprio di avvicinamento verso il calcio dagli spalti per tutta una serie di difficoltà e di difficoltà imposte come la repressione, ma anche le televisioni e tutta la sponsorizzazione mediatica che il calcio ha subito, alla stessa maniera per cui è difficile portare avanti i mondiali antirazzisti in un'epoca simile. Quindi in un certo senso, più o meno secondo me, fino ad ora si è trattato questi argomenti e si arriva a questa chiosa da un certo punto di vista che a livello montevarchino ci fa quantomeno appendere una medaglietta sulla maglia, no? Comunque a livello di tifoseria ci siamo rigenerati e stiamo andando avanti piuttosto bene, poi vedremo nel futuro, malgrado le mille difficoltà che il mondo esterno ha imposto alla realtà e al movimento. Sappiamo che ti occupi anche di calcio femminile, diciamo, questa nuova realtà che da un po' di anni sta prendendo sempre più piedi. Infatti vedi, il Montevarchi è già il secondo anno che ha organizzato un settore giovanile femminile, ma anche insomma professionista. Tu che vieni da Bologna, quindi una realtà già molto avanti anni luce, se si può dire, per quanto riguarda il calcio femminile, ma anche insomma in generale per il calcio, come vedi la realtà di Montevarchi, ma anche la realtà del calcio femminile? Cioè, come andrebbe vissuta da parte delle tifoserie delle città questa nuova avanguardia del calcio? Non è facile, perché oggettivamente a livello di tifoseria il calcio femminile, come anche in parte della primavera, non è mai stato seguito con grande trasporto, sia nelle grandi città come nelle piccole realtà. Solo negli ultimi anni si sta vedendo qualcosa muoversi a livello locale. Penso quest'anno si è visto la Juve, ha portato molta gente allo stadio a seguire la partita. Il Brescia ha una tifoseria organizzata che segue il calcio femminile. Poi adesso il Brescia è sparito, è stato assorbito dal Milan e bisognerà vedere come si comporteranno i tifosi rossoneri. C'è grossa diffidenza a livello sia di tifoso, ma anche a livello giornalistico, a livello diciamo di appassionato di calcio, al calcio femminile. Molti lo considerano un non sport o comunque qualcosa che esula dal calcio, ma perché si fa sempre il raffronto col calcio maschile e ovviamente le differenze sono enormi dai campi, dalla preparazione. Pensiamo solo al fatto che le calciatrici non sono professioniste ma sono dilettanti, quindi spesso si devono dividere fra lavoro, allenamenti, partite e non hanno staff spesso e volentieri adeguati. Ora con l'ingresso delle società in Serie A qualcosa sta cambiando, ma negli ultimi 20 anni il calcio femminile, il movimento femminile in Italia ha avuto passi indietro enormi. Ora si sta rimuovendo, perché comunque ci sono state anche a livello federale delle scelte che hanno spinto a una maggiore attenzione al calcio femminile, quindi non è facile trovare una risposta. A Montevarchi si è creata una squadra comunque interessante, ha vinto il campionato quest'anno, è salita di categoria, quindi c'è una buona base per portarla avanti. Bisognerebbe provare a magari avvicinarsi, andare a vedere qualche partita, anche se il livello magari spesso non è esaltante, però bisogna... Quindi magari anche saltare qualche trasferta, magari lontana nel Monte Varchi, e dedicare una domenica al calcio femminile, perché c'è anche questo problema della sovrapposizione dei vari eventi, o comunque quando una gioca in casa, una gioca fuori, eccetera. Sì, quello è una complicanza e oggettivamente capisco che non sia facile magari non seguire la propria squadra maschile per andare a seguire quella femminile, però se c'è l'occasione magari di un turno infrasettimanale o non so, una volta che Montevarchi riposa e gioca il femminile per un qualunque motivo, magari provare a avvicinarsi a vedere queste ragazze e magari uno scopre anche la passione. Io lo ammetto, l'ho sempre seguito molto poco il mondo femminile, poi piano piano mi ci sono riavvicinato e mi sono appassionato, arrivando poi anche a riuscire a ritagliarmi uno spazio dove lavoro per seguire il calcio femminile sia a livello di club che di nazionale. Tommaso, stiamo lentamente scivolando verso il finale di questa puntata, che è anche l'ultima puntata della stagione, quindi poi ci sarà da fare un po' la somma degli eventi che sono occorsi, quantomeno quelli che ci ricordiamo in questo momento. Quindi anche a te tocca una delle domande di rito a tutti gli ospiti che sono intervenuti, che non erano né calciatori né allenatori del Montevarchi, quindi tifosi, semplici tifosi o semplici persone come te. Nelle volte che sei stato a Montevarchi, che comunque non sono tantissime perché è poco che sei stato introdotto al nostro, alla nostra comunità, e quindi poi sì, sei comunque intervenuto, ma ovviamente c'hai anche altri interessi e tue passioni personali, però nelle volte che sei intervenuto a Montevarchi, cosa ti ha colpito di più, quale magari avvenimento, e cos'è che hai visto che proprio davvero più ti ha colpito e che ti sei un po' messo dentro e fatto tuo? Allora, sicuramente una delle esperienze più belle è stata il derby con la San Giovannese che ho vissuto già dalle settimane prima tramite messaggi con i ragazzi della curva, perché c'era tutta la questione dei biglietti, non biglietti nominali, eccetera. L'ho vissuta venendo molto prima del solito a Montevarchi, di solito arrivo verso mezzogiorno, l'una, quel giorno se non sbaglio sono arrivato intorno alle 10 del mattino, e ho vissuto tutta la preparazione, tutta la l'attesa carica per questa partita che è molto importante per la città e la tifoseria ovviamente. Quella è stata un'esperienza molto bella. Un'altra esperienza è stata quando sono venuto per il gioco del Pozzo, il Perdono, qui, che ho vissuto non solo la partita al pomeriggio, ma anche una parte, non tutta, perché poi sono dovuto andare via perché il treno chiamava, del gioco del Pozzo in piazza, nella piazza centrale, e lì si è vista proprio lo spirito di comunità di questa città. Uno spirito che mi ha lasciato una bella sensazione. Comunque Giulia mi diceva ora proprio che c'è davvero una grossa coincidenza, cioè te vieni dal Bologna, che è una delle più antiche squadre di calcio italiano, con i colori rosso-blu, e ti sei ritrovato a Montevarchi, che è la squadra più vecchia della Toscana, essendo stata fondata nel 1902, e ha i colori rosso-blu. È una cosa su cui all'inizio ci ho pensato, devo dire, il fatto di che voi abbiate i colori rosso-blu o rosso-blè, come dite voi, in comune con la mia squadra del cuore, col Bologna, è stata una cosa, devo dire, che mi ha colpito e che mi ha fatto sentire già a casa, diciamo. Mai con altri colori avrei avuto all'inizio qualche resistenza in più, sicuramente, con alcuni probabilmente non avrei avuto neanche il dubbio di venire o meno in curva, invece con il colore rosso-blu già è stato qualcosa che mi ha fatto sentire più a casa, e quindi sì, è una coincidenza particolare, siete anche più antichi di noi, insomma, noi siamo del 1909, sì, è una bella coincidenza. Benissimo Tommaso, allora siamo giunti veramente alla conclusione di questa intervista, di questa ultima puntata della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila. Io colgo l'occasione per ringraziarti, perché è sempre un piacere ritrovarti, è sempre un piacere parlare con te. Fumino, come chiudere questa stagione del volo dell'Aquila? Come chiosare su questa avventura? Beh Giulia, c'ho un po' la voce rotta dall'emozione perché chiudere in effetti un po' è difficile, era ormai una piacevole abitudine, una cosa che è andata avanti molto molto più di quello che poteva essere nelle mie previsioni iniziali. Però tant'è, qui ci siamo arrivati. Allora, come sempre, anche io ringrazio il nostro ospite di oggi, ovvero Tommaso. Vi ringrazio anch'io per questo invito, per essermi trovato qui a parlare con voi di Montevarchi, di Ultras e di altro. È stato un piacere e oggettivamente inaspettato, perché come ho detto in apertura di trasmissione, un anno fa non avrei mai pensato di trovarmi in questa situazione. Continuiamo, visto che è una puntata speciale e particolare, con i ringraziamenti. Quindi ringrazio anche Alberto, una nostra voce di Radio Big World, per essere stato con noi in maniera egregia, direi, a condurre questa puntata. Grazie a te Fumino, grazie a te Julian, ma anche a te Tommaso, che mi ha dato modo di scoprire un altro punto di vista della Montevarchinità. Poi continuiamo con i ringraziamenti, ringraziamo il nostro regista, ma quello vero, che per tutta questa stagione ci ha assecondato, ci ha guidato, ci ha registrato, ha fatto i tagli, ha fatto i controtagli, ha fatto i fuori onda, quindi aspettate perché ci saranno anche oggi. E oggi il suo nome è Carlo Vanzina, in onore del regista appena scomparso, ma il suo nome è un altro, ma non ve lo dirò. E ringraziamo ancora per l'ultima volta i nostri ascoltatori di Radio Big World, quelli più fedeli, quelli che sono appena arrivati, quelli che c'erano fino dalla primissima puntata. Ringraziamo tutti gli ospiti che sono intervenuti fin dalla prima puntata, anzi i primi ospiti sono stati i più importanti per noi, perché siamo andati, è vero Giulian, a pescare fra gli amici, fra le persone più strette, e non ci hanno preso per pazzi e ci hanno dato modo di iniziare questa bellissima avventura, anzi questo bellissimo volo alla ricerca della Montevarchinità. E tiriamo le somme, durante questa stagione sono venuti fuori molti concetti, alcuni ripetuti, per cui la Montevarchinità è un valore da tenere sempre in considerazione e da tenere stretto, ovvero la passione, ovvero l'accoglienza, ovvero l'essere parte di una comunità in qualche modo, ognuno a modo suo, che sia vissuto in anni ormai tanto passati o che sia giovane oggi, e questo ci tiene insieme. Bene, ormai ho praticamente ringraziato tutti, manca solo una persona, Julian, ma questa io la farei salutare e ringraziare a te. Sì, tra l'altro si sente ancora la scia del suo profumo, perché se n'è andato, ma era qui a inizio puntata, era tutto reduce dalla notte rosa, era tutto rileccato con la polo e col letto alto, insomma era proprio abbronzatissimo, con la rapa che splendeva, era più santo di sempre, era proprio più santo del solito oggi. Esatto, nel riflesso della sua testa glabra si vedeva l'aureola del santissimo subito che è. Quindi grazie a Stefano Neri, senza il quale il volo dell'Aquila non sarebbe mai esistito, perché comunque altrimenti non avrebbe avuto uno spazio, se non a casa Fumino, dove è accaduto in realtà nella prima puntata. Anche questo è un mistero, non sarà mai svelato. Anche questo è un mistero, quindi poi sveliamo i misteri, il regista e la primissima puntata che è stata condotta incredibilmente a casa mia. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Tra l'altro per colpa di Stefano Neri, e non ci portò le chiavi, diciamola tutta. L'Aquila ormai sta planando, sta discendendo lungo la valle. Io ringrazio ancora Julian e Fumino che mi hanno dato questa unica opportunità, però deliziosa, e vi diamo appuntamento alla prossima, chi lo sa. Apriamo la birra. No, Oltrano, sono anche quelle che ci sono più gruppi di tifosi, che potremmo dire da distinti, ecco. Sì, famiglie, magari parenti delle calciatrici, però un movimento Ultras oggettivamente no. Nazionale, allora, a livello di ritmi molto bassi, però tecnicamente ci sono ragazze piuttosto valide, diciamo che può essere una serie B, secondo me, a livello di nazionale. Poi dipende sempre anche dall'avversario, perché il Belgio è una Serie B di alto livello, magari con la Moldavia è una Serie B di basso livello. È un casino giocare con le donne. Io, perché comunque ora è vero che ci sarà una differenza. Come fai a dare una pedata a una donna? Si creeranno dei fatti apposta quando un uomo e una donna sono vicini. Ma io tra l'altro avevo una mia compagna in classe che faceva il calcetto. Lei, per dire, ci faceva un culo così a tutti quando si giocava a calcio a scuola, no? Al liceo, sto parlando. Beh, ti dico. Non so se è una cosa bizzarra. Tommaso tifa per una squadra che ha il colore rosso blu e che è una squadra antica di giochi, calcio. Coincidenza. E ti è capitato per amicizie di finire in una tifoseria rosso blu della squadra più vecchia della Toscana, per esempio. Che è la squadra più vecchia di Montevarchi, sì. Anche. Anzi, il PSL è non fa. No, generale, uno tipo, grazie anche da parte mia. Grazie anche da parte mia e vi diamo appuntamento a chissà quando. Chissà, non ci scrivono, ci mettono con le sarte, magari che ci passi il ridere, vai. Si può fare una puntata poi sui pangarasau, come si chiama, il maialino, il malloretus. Poi mettiamoci un po' di roba vegetariana, un po' di roba di carne, perché se no almeno si accontenta tutto. Via, bando alle ciance, benvenuti alla nuova. No, non è vero, è finita davvero per ora. Dai. Però facciamo. Benvenuti a tutti. Salutare se è salutato, ringraziare se è ringraziato. Si va a Luciano. Ci piace, direi di sì.